La fede al Iman. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. La fede al Iman consiste nel credere in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi apostoli, nella vita futura e nel credere nella provenienza del bene e del male dal decreto divino. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la fede, se veramente esiste nel cuore di un uomo, si esprime attraverso le sue azioni. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la fede non è una realtà che sta soltanto dentro, ma una realtà la cui presenza dentro è documentata dai fatti. Chi crede che basti solo avere fede dentro è fuorviato a tal punto che lascerà questa vita senza aver fatto nemmeno un'opera buona. Diranno, anche noi abbiamo adorato Allah, lo dicono ma mentono. Infatti, se avessero adorato Allah, avrebbero compiuto buone azioni. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nessuno di voi possiede la fede fino a quando non ama per suo fratello ciò che ama per sé medesimo. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. La dolcezza della fede può gustarla pienamente soltanto colui per il quale il Signore è Allah, la religione è l'Islam e per il quale Muhammad è l'apostolo di Allah. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. La dolcezza della fede l'ha trovata colui che possiede queste tre cose: un amore per Allah e per il suo apostolo che sta al di sopra di tutto, un amore per il fratello motivato dall'amore di quest'ultimo per Allah, un orrore di ricadere nella miscredenza come quello di essere gettato nel fuoco. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. In verità, un segno della fede è la noncuranza dei beni del mondo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. La fede ha per destino il paradiso ed il ritegno fa parte della fede. La credine ha per destino l'inferno e l'impudenza proviene dalla credine. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non c'è fede in chi non è leale e non c'è religione in chi non mantiene le promesse. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la fede non è completa fino a quando l'uomo non sia capace di tre cose: di fare l'elemosina anche quando si trova in ristrettezze, riconoscere i torti e salutare gli altri per primo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chiunque abbia avuto nel suo cuore tanta fede quanto il peso di un seme di senape non entrerà nel fuoco, mentre chiunque abbia avuto nel cuore tanta superbia quanto il peso di un seme di senape non entrerà in paradiso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nessuno di voi possiede la fede fino a quando il suo stile di vita non combacia perfettamente con ciò con cui sono stato inviato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non possiede la fede chi mangia mentre il suo prossimo patisce la fame. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Molti difetti può avere colui che possiede la fede, tranne due: tradire la fiducia e mentire. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, colui che possiede la fede non cade mai due volte nella stessa buca. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, coloro che possiedono la fede per l'affetto e l'amore reciproco che li lega gli uni agli altri sono come il corpo. Quando una delle parti del corpo sta male, tutte le altre partecipano alla sofferenza con l'insonnia e la febbre. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il rapporto che c'è tra due persone che possiedono la fede è come quello di due pietre di un muro nel quale l'una rafforza l'altra. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, colui che mi ha visto e ha creduto in me è un uomo fortunato, ma colui che non mi ha visto ed ha avuto fede in me è un uomo sette volte fortunato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è veramente una cosa straordinaria. Per colui che possiede la fede tutto va sempre bene e nessun altro ha questo privilegio. Infatti, colui che possiede la fede, quando le cose gli vanno bene, ringrazia Allah, e ciò è fonte di bene per lui. Quando invece le cose vanno male, si rassegna al volere di Allah, pazienta, e ciò è fonte di bene per lui. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la devozione quotidiana, cioè il rito di adorazione, illumina il cuore e l'atto caritatevole è una prova della fede. Il tenersi lontano dal peccato è perfetto splendore e il Corano sarà la vostra dannazione se voi agite male. L'uomo, quando si alza al mattino, si accinge a fare durante la giornata o ciò che lo porta alla salvezza oppure ciò che lo porta alla rovina. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, tutti i profeti che mi hanno preceduto hanno avuto discepoli e seguaci, i quali li prendevano a modello e mettevano in pratica i loro insegnamenti. Furono le generazioni successive a tralignare. Non mettevano in pratica quello che affermavano e trasgredivano gli insegnamenti ricevuti. La fede la possiede chi combatte i trasgressori. La fede la possiede chi si oppone alla trasgressione con la parola. La fede la possiede chi disapprova in cuor suo la trasgressione. Al di fuori di ciò non c'è nemmeno un briciolo di fede. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, colui che possiede la fede è come il giunco. Il vento tira e lo piega, ma poi lui si raddrizza quando il vento è passato. L'ipocrita, invece, è come la quercia. Il vento tira e la quercia resiste. Resiste, resiste, finché viene sradicata ad un sol colpo. Credere in Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la gente continuerà a fare delle domande fino a quando la domanda sarà: Allah è il creatore dell'universo. E Allah chi è che l'ha creato? Colui al quale questa domanda viene posta deve rispondere: io credo in Allah e nel suo apostolo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non meditate su Allah, bensì sulla creazione di Allah, e ciò perché Egli è al di là delle vostre capacità di capire. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah non ha pari e ama il dispari. disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ha 99 nomi, 100 meno 1. Chi li ricorda per metterli in pratica entrerà in paradiso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in verità Allah è puro e ama la purezza. E ancora, in verità Allah è bello e ama la bellezza. E ancora, Allah è generoso e ama la generosità. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah concede tempo al malvagio, ma quando alla fine lo prende, non se lo lascia sfuggire. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah non sarà misericordioso con chi non è misericordioso con il prossimo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ha maledetto i maschi che imitano le femmine e le femmine che imitano i maschi. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ama vedere i segni della sua benevolenza sul suo servo. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah siede vicino al giudice fino a quando il giudice non commette ingiustizia, ma quando la commette, egli si allontana da lui e Satana gli si appiccica addosso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah vi proibisce di giurare sui vostri padri, e se qualcuno vuole giurare, deve giurare su Allah, oppure tacere. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah è misericordioso con colui che è cordiale quando vende, quando compra e quando reclama. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ha maledetto il vino, chi lo beve, chi lo serve, chi lo vende, chi lo compra, chi lo produce, colui per il quale viene prodotto, chi lo offre e colui al quale viene offerto, e colui che siede vicino a colui che beve il vino. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah maledice il bevitore di bevande intossicanti e chi le vende. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah accetta il pentimento del pentito purché si penta prima che il sole sorga da ponente. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah non ha creato nessuna malattia senza creare per essa il suo rimedio. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah, quando un servo si pente, è più contento di quello di voi, che dopo aver perduto il suo cammello in un arido deserto, lo ritrova. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah non fa dipendere la vostra guarigione da sostanze di cui vi ha proibito l'uso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah si compiace del servo che quando mangia gli innalza una lode per il cibo e quando beve gli innalza una lode per la bevanda. La fede, all'Iman, credere negli angeli. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, gli angeli furono creati dalla luce, i jin furono creati dal fuoco senza fumo e Adamo fu creato da ciò che vi è stato raccontato, cioè dall'argilla. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, sia di giorno che di notte ci sono in mezzo a voi degli angeli. Quelli che stanno in mezzo a voi di giorno fanno adunata nel tardo pomeriggio e poi ritornano al cospetto di Allah. Quelli che stanno in mezzo a voi la notte fanno adunata sul far dell'alba e poi ritornano al cospetto di Allah. Quando le schiere angeliche tornano al cospetto di Allah, egli, che pure tutto sa, domanda: «Come avete lasciato i miei servi?» E gli angeli rispondono: «Li abbiamo lasciati in adorazione, così come in adorazione li abbiamo trovati. Disse, che Allah lo benedica e la benvenga, gli angeli non entrano in una casa dove c'è un cane o dove ci sono immagini. Disse, che Allah lo benedica e la benvenga, gli angeli non accompagnano una comitiva dove ci sono cani e zufoli. Credere nei libri, disse, che Allah lo benedica e la benvenga. La fede consiste nel credere in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi apostoli, nella vita futura e nel credere nel decreto divino per il bene e per il male. Disse, che Allah lo benedica e la benvenga. O Allah, Signore dei cieli e della terra, Signore di tutto ciò che esiste, che spezzi il granello e il nocciolo, che hai rivelato la Torah, il Vangelo e il Corano, io mi rifugio in te contro il male di qualsiasi malefico il cui ciuffo tu afferri. Tu sei il primo e nulla c'è prima di te. Tu sei l'ultimo e nulla c'è dopo di te. Tu sei l'estremità superiore e non c'è nulla al di sopra di te. Tu sei l'estremità inferiore e non c'è nulla al di sotto di te. Credere negli apostoli. Disse che Allah lo benedica e la benvenga. Ogni profeta che mi ha preceduto è stato mandato con una missione di salvezza limitata al suo popolo, mentre io sono stato inviato con una missione di salvezza che ha per destinatari tutti gli uomini. Disse che Allah lo benedica e la benvenga. Io sono stato inviato come profeta a beneficio di tutto il creato e la missione profetica ha ricevuto in me il suo sigillo. Disse che Allah lo benedica e la benvenga. Il paragone della missione profetica che è stata affidata a me e ai profeti che mi hanno preceduto è questa. C'è un castello costruito in maniera eccellente, ma in un muro di quel castello manca un mattone. I visitatori che girano attorno al castello sono incantati dalla bellezza della costruzione, ma quando giungono al muro dove manca un mattone, rilevano la manchevolezza. Con me è stato riempito il buco del mattone mancante. Io sono il mattone mancante e io sono il sigillo della profezia. Disse, che Allah lo benedica e la benvenga. Io e la missione profetica che mi è stata affidata da Allah siamo paragonabili a quell'uomo, il quale, stando in cima alla collina sovrastante al suo villaggio, dopo aver visto in lontananza il nemico avvicinarsi, diede l'allarme e gli gridò: «Con i miei occhi vedo il nemico avvicinarsi, mettetevi in salvo!» Una parte degli abitanti gli credette e al calar della notte abbandonarono il villaggio. Quelli che non gli ebbero dato ascolto, nonostante l'avviso dell'imminente pericolo, rimasero invece nelle loro case. Sul far dell'alba il nemico prese d'assalto il villaggio e tutti quelli che non avevano dato ascolto all'avvertimento vennero sterminati. I primi sono quelli che mi obbediscono e seguono l'avvertimento, mentre gli altri sono quelli che mi disobbediscono e non credono alla verità che ho portato. Disse che Allah lo benedica e la benvenga. L'immagine che si attaglia perfettamente a me e a voi è quella dell'uomo vicino al fuoco e delle farfalle notturne. L'uomo vuole impedire alle farfalle di bruciarsi nelle fiamme agitando le braccia, ma esse si precipitano nel fuoco. Io sono come quell'uomo, io cerco di salvarvi dal fuoco prendendovi per il petto, ma voi sfuggite alle mie mani. Disse, che Allah lo benedica e la bingloria, l'insegnamento religioso con cui Allah mi ha inviato è paragonabile alla pioggia. Quando la pioggia cade sulla terra fertile, la vegetazione germoglia, l'erba dei pascoli cresce, l'acqua piovana infine si raccoglie in alcuni punti. Per mezzo di quell'acqua Allah offre agli uomini grande giovamento. Con essa, infatti, essi si dissetano, abbeverano il bestiame e irrigano i campi. Quando la pioggia cade sulla terra sterile, la vegetazione non germoglia, l'erba non cresce e l'acqua piovana si disperde. Il primo paragone riguarda coloro i quali, dopo aver conosciuto la religione di Allah, traggono beneficio dal messaggio affidatomi, e ciascuno di essi, dopo aver arricchito se stesso, arricchisce gli altri insegnando quello che ha imparato. Il secondo paragone invece riguarda coloro ai quali non gliene importa nulla del messaggio e non accettano le direttive di Allah che ho ricevuto l'incarico di insegnare. Disse, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, di tutti gli uomini io sono il più vicino a Gesù figlio di Maria nella vita terrena e in quella futura. I profeti sono fratelli, figli nati dallo stesso padre e da madri diverse. La loro religione è la medesima e tra noi due non c'è stato nessun profeta. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Abramo fu l'amico di Allah e in verità lo fu. Mosè fu il confidente di Allah e in verità lo fu. Gesù fu suo spirito e sua parola e in verità lo fu. Adamo fu scelto da Allah e in verità lo fu. Io sono colui che Allah ama e questo non è certo vanteria. Nel giorno della resurrezione io porterò lo stendardo della lode sotto il quale ci saranno Adamo e gli altri e questo certamente non è vanteria. Io sarò il primo a intercedere e il primo la cui intercessione sarà accolta nel giorno della resurrezione, e questo non è certo vanteria. Io sarò il primo a bussare col battiporta all'uscio del paradiso, e Allah mi aprirà e mi farà entrare in compagnia dei credenti poveri, e questo non è certo vanteria. Tra quelli dei primi tempi e degli ultimi, io sono il più alto in grado nella considerazione di Allah, e questo non è vanteria. Credere nella vita futura. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Per Allah, se volete avere una pallida idea della differenza che corre tra la vita futura e la vita terrena, dovete immaginare la differenza che c'è tra le acque dell'oceano e l'acqua che vi resta sopra il dito quando l'avete tirato fuori dall'oceano nelle cui acque l'avevate immerso. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, coloro che entreranno in paradiso saranno beati e non sentiranno la mancanza di nulla. I loro vestiti saranno sempre nuovi fiammanti e la loro giovinezza non sfiorirà mai. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, o uomini, piangete! E se non siete capaci di piangere, fingete di piangere. gli inquilini dell'inferno piangeranno nel fuoco e le loro lacrime scenderanno come torrenti. Quando essi non avranno più lacrime da piangere, piangeranno sangue, e così saranno devastati i loro occhi. Se in quel mare di lacrime e di sangue fossero fatte entrare delle navi, potrebbero navigare. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Quando chi doveva andare in paradiso ci sarà andato e chi doveva andare all'inferno ci sarà andato, la morte sarà portata a metà tra il paradiso e l'inferno e lì sarà soppressa. Poi, ad esecuzione avvenuta, un araldo proclamerà: «O inquilini del paradiso, la morte è stata soppressa! O inquilini dell'inferno, la morte è stata soppressa!» Gli inquilini del paradiso aggiungeranno gioia alla loro gioia e gli inquilini dell'inferno aggiungeranno tormento ai loro tormenti. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Prima della fine del mondo appariranno grandissimi impostori. Guardatevi da essi. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Non servirà più aver fede a chi non ce l'aveva e a chi di essa non fece tesoro, quando tre cose appariranno. Quelle tre cose sono la levata del sole da ponente, l'anticristo e la bestia della terra. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'anticristo cavalcherà in groppa a un asino bianco. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'anticristo starà sulla terra 40 anni. Un anno sarà lungo come un mese come una settimana come un giorno, e un giorno avrà la durata d'un fuoco d'un ramo secco. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Il Cristo, Gesù figlio di Maria, ritornerà sulla terra e governerà con giustizia, spezzerà la croce, ucciderà il porco e abolirà la gizia. Sotto il suo governo l'odio, l'inimicizia e il risentimento tra gli uomini scompariranno. Egli vorrà distribuire la ricchezza proveniente dalla raccolta dell'imposta coranica, ma nessuno ne avrà bisogno. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. La tromba del giorno del giudizio è un corno a cui sarà dato fiato. Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Nel giorno della resurrezione Allah arrotolerà i cieli e poi, tenendoli stretti nella sua mano destra, dirà: «Il re sono io, dove sono i despoti, dove sono i superbi?» Disse: «Coloro i quali, con fede autentica e dal profondo del loro cuore e della loro anima, avranno detto che non c'è divinità tranne Allah, saranno beneficiari nel giorno del giudizio della mia intercessione». Disse che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Nel giorno del giudizio, il giorno in cui non ci sarà altra ombra che quella di Allah, saranno 7 quelli che staranno all'ombra: il governante giusto, il giovane cresciuto nel timore di Allah, l'uomo il cui cuore fu legato alla moschea, 2 persone che si sono amate per Allah, per lui sono state assieme e per lui si sono separate, l'uomo i cui occhi, quando era solo, si riempivano di lacrime al ricordo di Allah, l'uomo che, dicendo «temo Allah», resistette alla seduzione di una donna affascinante, l'uomo che faceva la carità con tanta riservatezza che la sua mano sinistra non seppe mai ciò che faceva la destra. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, nel giorno del giudizio Allah non rivolgerà la parola a tre: al vecchio impudico, al sovrano bugiardo e al povero altezzoso. Questi tre non saranno purificati e saranno mandati ad un terribile supplizio. Credere nel decreto divino, al-Qadr. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, un uomo non è credente finché non crede in quattro cose: che non c'è divinità fuorché Allah e che io sono il suo apostolo che egli ha inviato con la verità, che dopo la morte ci sarà la resurrezione, che l'esistenza è regolata dal decreto divino. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, Allah, per ogni uomo che ha creato, ha decretato cinque cose: la durata della sua vita, la sua azione, il suo riposo, i suoi movimenti e i mezzi per la sua sussistenza. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah creò le sue creature nelle tenebre e poi fece scendere un raggio della sua luce sulla sua creazione. Coloro sui quali la luce è caduta sono i ben guidati, mentre coloro che non sono stati illuminati sono i dannati. Riguardo a ciò vi dico che la penna non ha più nulla da scrivere su ciò che Allah conosce. Disse, che Allah lo benedica e la bengloria, Allah, quando ha creato un uomo destinato al paradiso, lo occupa nelle azioni che sono proprie di coloro che vanno in paradiso, sicché l'ultima azione di quell'uomo prima di morire sarà una di quelle che compiono i destinatari del paradiso e quindi entrerà nel paradiso. Al contrario, Allah, quando ha creato un uomo destinato all'inferno, lo occupa nelle azioni che sono proprie di coloro che vanno all'inferno, sicché l'ultima azione di quest'uomo, prima di morire, sarà una di quelle che compiono i destinatari dell'inferno, e quindi andrà all'inferno.